Radio 24 Reportage. Asrak e Zaatari in Giordania, all'origine dell'esodo, di Valentina Furlanetto. I migranti vestiti d'argento, abbarbicati sugli scogli di Ventimiglia, o sdraiati gli uni sugli altri a Tiburtina, messi sotto vetro in stazione centrale a Milano, da dove vengono, che cosa vogliono? Bisogna prendere un aereo destinazione Giordania per capire almeno in parte l'origine dell'esodo al quale stiamo assistendo. نسمع أصوات نضرب الدار كان في واحد برا أصوات ودي تيجي عليه وطلقة. No, non so dov'è l'Italia. In Europa? Sì, ho capito. No, non voglio andare in Europa. Io vorrei tornare a casa mia, in Siria. Alla scuola di Arramat, al confine con la Siria, si imparano le tabelline sotto le bombe che cadono a pochi metri dalla scuola. Siamo in Giordania, al confine settentrionale. Qui le polemiche sull'accoglienza di 55.000 migranti arrivati in pochi mesi in una piccola nazione europea sono solo un'eco lontana. I giordani hanno accolto 600.000 profughi siriani scappati da una guerra che ha fatto finora 200.000 vittime, 4 milioni di rifugiati, 2 milioni sono bambini, spiega l'UNICEF. Il regime di Bashar al-Assad bombarda da 4 anni la popolazione siriana. E dove non ci pensa al-Assad, ci pensa lo Stato Islamico, che ha preso possesso dell'area orientale del paese. Vengo da Dara, dice Faiz, 10 anni. Quando sentiamo i bombardamenti, ci mettiamo sotto i banchi, perché ci hanno detto di fare così. Succede circa 2 volte al giorno. Per capire perché questa gente scappa a Lampedusa, poi a Ventimiglia, poi altrove, bisogna guardare Faiz in faccia ad Al-Ramat e rendersi conto che qualsiasi cosa è meglio che svegliarsi la notte con il suono di una bomba. Lasciamo Al-Ramat e procediamo verso Al-Zaatari, il secondo campo profughi al mondo, una distesa di container in mezzo al deserto che oggi ospita 83.000 profughi siriani. La quinta città della Giordania attualmente, dove però manca l'elettricità, scarseggia l'acqua, si vive in soffocanti container, ci si arrangia come si può. Il problema per i bambini del campo è che spesso hanno perso anni di scuola in Siria e reinserirli in una classe non è facile. Paolo Rozzera, direttore generale UNICEF Italia. Il ritornare a scuola, il riprendere la scuola, non perdere anni scolastici, vuol dire, come ci hanno detto stessi ragazzi, non sparire come generazione. E questa è una delle prime cose importanti che abbiamo fatto. C'è ancora da fare tanto, c'è da lavorare sul tema dell'acqua potabile, perché portare l'acqua qui in un paese dove è uno tra i paesi più carenti di risorse idriche, portare l'acqua a tutti quanti è molto costoso. E quindi in questo c'è ancora bisogno di tanto aiuto. E la terza cosa sulla quale bisogna lavorare ancora molto è quella dei, loro chiamano i Maki, che significa il mio spazio. Perché qui non tutti i bambini riescono ad andare a scuola. Quando ci sono bambini dell'età di 16-17 anni che a causa della guerra civile hanno già perso in Siria anni scolastici, vengono qui ed è difficile farli rientrare nella scuola. Allora creare degli spazi dove loro possono fare attività artigianali, dove si possono trovare insieme agli altri ragazzi e fare un po' di quella che noi chiamiamo educazione informale, ma che in qualche modo li aiuta a poter avere una sorta di piccola preparazione professionale per il futuro, è estremamente importante per loro. Quando pensi di aver visto tutto il brutto che la guerra in Siria ha riversato in Giordania, è in quel momento che entri in ospedale e vedi Mustafa, circa 15 anni, amputato a una gamba. È accaduto 6 mesi fa, dice Mustafa. Tornavo da scuola, sono uscito per giocare a calcio. Hanno iniziato a bombardare, sono stato ferito. Sono stato operato ad Ara. Sono riuscito a passare il confine perché ero ferito e hanno permesso a mio padre di accompagnarmi. In Siria sono rimaste mia madre e mia sorella. Non hanno dato loro il permesso di passare. La storia di Mustafa non è purtroppo una storia isolata. Most of them are like barrel injuries, barrel explosions. Some of them are like caused by air strikes. Abbiamo pazienti chirurgici e ortopedici. Curiamo per lo più ferite di guerra, dice Mohamed, uno dei dottori dell'ospedale, per lo più provocate dalle bombe. Ci sono molti bambini di diverse età. Uno dei problemi è che i bambini che utilizzano le protesi poi crescono. È una riabilitazione che dura anni. Lasciamo il campo di Al-Zaatari e ci dirigiamo verso la valle del Giordano a sud-est. Finalmente il bianco vira nel verde dei cactus e degli ulivi. A lato della strada si moltiplicano le serre delle coltivazioni intensive. Chinati sotto il sole, ragazzini raccolgono il peperoncino. Sono i bambini invisibili, minori siriani non registrati che assieme alle loro famiglie non vogliono stare nei campi profughi. Vivono in accampamenti di fortuna lungo i campi. In uno di questi insediamenti illegali vive Radir, siriana di Hama, 21 anni, 4 figli. Sono Radir, di Hama. Ringrazio Dio, dice Radir, perché siamo vivi. La mia vita in Siria era migliore, certo, ma per fortuna siamo vivi. Qui lavoro nei campi dalle 6 del mattino fino alle 14 circa. Quando non ci sono, ai più piccoli bada la mia figlia maggiore. Quanti anni ha? 6 anni. Lasciamo il verde della valle del Giordano e ci rituffiamo nel bianco che fa male agli occhi della Giordania del Nord. Mosche e vento ci fanno compagnia. Quando all'orizzonte si scorge sventolare la bandiera del Free Syrian Army. Qui, poche ore prima, a 6 chilometri, è caduta una bomba. Siamo a Tal Shiab, avamposto militare a nord-ovest. Era un valico di passaggio ufficiale. Ora il confine è chiuso. Passano solo i feriti dopo estenuanti trattative. Dobbiamo proteggere i civili e i profughi, dice il generale Hassan, che vigila sull'avamposto. Allo stesso tempo dobbiamo controllare la sicurezza del paese e prevenire l'infiltrazione di terroristi. L'ultima tappa del nostro viaggio è il nuovissimo campo profughi di Azraq. Il paesaggio desolato vira dal bianco tagliente dell'alba al bianco morbido del tramonto. Benvenuti sulla Luna, dice Lucio Melandri, responsabile emergenze UNICEF Giordania. Sassi, mosche, afa. Qui non c'è nulla tranne sassi per decine di chilometri. Andrea Iacomini, portavoce UNICEF. La novità di Azraq naturalmente è che ha una nuova caratteristica, cioè ci sono i rifugiati da ISIS, quindi c'è un movimento umano di persone che non vogliono restare nel campo, che sono appena arrivate, che vivono ancora il trauma di quello che hanno subito, ma soprattutto è un campo molto strutturato dove i rifugiati si sentono piuttosto chiusi, non possono fare nulla perché chiaramente ci sono container, non ci sono tende, non c'è ancora una vita strutturata. Azraq sembra un luogo fatto apposta per essere inospitale. Rispetto a Al-Zaatari l'isolamento è totale, l'assenza di prospettive è palpabile. Una giovane donna, visibilmente in gravidanza, ci invita a visitare il suo container. Dentro, in 3 metri per 2, vivono in 5, a breve in 6. Il marito è esasperato, mi mostra il pane che non basta, parla dell'acqua che non c'è, indica i bambini che stanno sdraiati nel caldo soffocante. La tensione sale. Un altro profugo ci indica il figlio, pochi mesi di vita, il volto attaccato dalle mosche. Non stupisce che da questo campo profughi non siano pochi quelli che tentano di andarsene. Una di loro è Zahara, ha 36 anni e ne dimostra 50. Wallahi, Gina... Vengo da Dar ez-Zor, dice Zahara. Ho 4 figli. Mio marito è rimasto in Siria. Dove vivevamo è un'area sotto controllo dello Stato Islamico. Siamo arrivati al confine e lì abbiamo dovuto aspettare 16 giorni, accampati. È stata dura. Avevamo fame, i bambini non ce la facevano più. Finalmente siamo riusciti a passare. Ma la vita qui è difficile. Non c'è abbastanza acqua, manca l'elettricità. Sto pensando di andarmene, di tornare in Siria. Cosa fa lo Stato Islamico? Daesh fa cose terribili a Raqqa. Tagliano le teste, le espongono al mercato. Li ho visti con i miei occhi. Ma io, se ho un sogno, è quello di tornare a casa mia. Voglio rivedere la mia casa. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.